GR Sport. Buongiorno a tutti da Carlo Genta. Fantastica Juventus che in due settimane batte altrettante volte il Real Madrid e si qualifica per la primavera della Champions League con due turni di anticipo sulla fine della fase a gironi. Peccato per la Fiorentina che non riesce a completare una serata memorabile facendosi raggiungere nel finale dal Bayern di Monaco. Ma partiamo dalla Juventus e dall'impresa del Bernabeu, impresa griffata da Alex Del Piero che al 17° del primo tempo ha aperto le marcature con un sinistro raso terra. La reazione del Real è stata ben contenuta dalla squadra di Ranieri che poi ha chiuso i conti nella ripresa con la solita punizione del capitano. Lo Zenit San Pietroburgo ha vinto 2-0 sul campo del Bate Borisov e la Juventus è già qualificata per gli ottavi per la gioia di Claudio Ranieri. La crisi di 20 giorni fa è ormai un ricordo lontanissimo. C'è quell'alchimia, quelle sincronizzazioni che soltanto giocando riescono a trovare, ma io non è che volevo cambiare all'inizio tanto per cambiare, è proprio che ero costretto a cambiare. Per cui adesso non è che voglio stravolgere le cose, che stiamo in emergenza, però i ragazzi si stanno sacrificando l'uno con l'altro ed è una cosa bellissima vedere questa squadra come si aiuta, si sacrifica e giocano veramente, ognuno gioca per la squadra e questi sono i risultati. Era partita benissimo la Fiorentina con il Bayern Monaco, subito in gol con un magnifico destro al volo di Mutu su cross di Zauri. La pecca viola è stata l'incapacità di chiudere il conto e al 33° della ripresa, su sbavatura della difesa di Prandelli, è arrivato il pareggio di Borowski. Intanto il Lione batte la Steaua a Bucarest e si arrampica con il Bayern a quota 8, la Fiorentina con 3 punti è quasi fuori. Adrian Mutu. Sono amareggiato sicuramente, non potrei essere in un modo diverso perché comunque, come dicevo anche te, abbiamo giocato bene, abbiamo messo in grande difficoltà una grande squadra. Diciamo, siamo stati un po' ingenui perché dovevamo chiudere la partita e questo è il nostro, diciamo, quello che possiamo rimproverare da questa partita, perché comunque le situazioni le abbiamo create. Diciamo, siamo una squadra che manchiamo di esperienza a questo livello qui. Piano piano, quando riusciremo a crescere e giocare con queste grandi squadre e non mancare più di esperienza, sicuramente il risultato sarà un altro. Negli altri gironi di Champions, Aalborg Villarreal 2-2, Celtic Manchester United 1-1, pareggio senza reti tra Arsenal e Fenerbahce, mentre il Porto ha vinto sul campo della Dinamo Kiev. Cambiamo argomento e parliamo di Formula 1. Prima vittoria per la FOTA, la nuova associazione dei costruttori di Formula 1. Infatti il consiglio della FIA riunito a Parigi ha deciso ieri di accogliere la proposta dei team finalizzata a ridurre i costi. I motori dovranno infatti durare 3 gare, una in più rispetto alle 2 attuali. Comunque la decisione allontana il ricorso al motore unico che la FIA vorrebbe introdurre e che trova la ferma opposizione dei team. Ancora cambiamenti nel calendario ufficiale della prossima stagione, esce ufficialmente di scena il Gran Premio di Francia, confermata anche l'assenza del Gran Premio del Canada. Chiudiamo con l'Europa del basket, terza giornata di Eurolega a due facce per le italiane, quella sorridente di Avellino che conquista la sua prima vittoria 72-70 sull'Unicaja Malaga. Piange ancora invece l'Armani Milano, battuta 81-76 a Belgrado e già in odore di eliminazione. È tutto per questa edizione di GR Sport, di nuovo buona giornata.